24, la storia. Bentrovati su Mix 24 con la terza puntata dedicata alla storia della CIA. Dopo la guerra fredda, il mondo sta cambiando. Sullo scenario internazionale emergono altri nemici più difficili da identificare e colpire. Gli Stati Uniti scoprono l'incubo del terrorismo. Alla Casa Bianca sono gli anni di George Bush Senior. Condurrò l'America verso un brillante futuro, affinché il sogno di gloria della nostra nazione non abbia mai fine. Questa è la mia missione ed io la porterò a termine. Dopo il crollo del muro di Berlino, il mondo spera in una nuova era di pace, ma presto scoprirà una guerra dai mille volti. L'allora direttore della CIA, Robert Gates, riesce a capirlo abbastanza velocemente. Fu chiaro subito che la caduta dell'Unione Sovietica non avrebbe portato stabilità. Nel mondo si crearono molte aree di turbolenza e la situazione si rivelò peggiore di quella della guerra fredda. E proprio mentre il mondo si sta adattando alla fine della guerra fredda, Saddam Hussein, il rais di Baghdad, invade il Kuwait. L'ambasciatore Joseph Wilson a Baghdad è preoccupato. A quel tempo ero a Baghdad. Ero all'ambasciata americana in Iraq. Avevamo ricevuto molte informazioni riguardo ad una possibile invasione del Kuwait. Luglio 1990, la CIA e gli altri servizi segreti americani avvertono George Bush che Saddam Hussein intende invadere il Kuwait. Alcuni agenti della CIA, lo stesso ambasciatore, vengono informati, ma la difficoltà è prevedere la prossima mossa di Saddam. La CIA aveva seguito con attenzione il dispiegamento delle forze e i preparativi dell'invasione. Tutto era documentato. Ma a Washington non capirono. Ricordo che un repubblicano ci disse: conosciamo bene Saddam, sta solo cercando di spaventare il Kuwait. Il direttore della CIA, Robert Gates, viene informato dai leader dell'area del Golfo, mentre l'ex direttore dell'agenzia, William Webster, attraverso il suo vice, è avvisato di un'imminente invasione. I leader dell'area del Golfo ci ripetevano in coro: tranquilli, non invaderà mai il Kuwait, è solo un bluff per alzare il prezzo del petrolio. Ce lo disse Mubarak, il re Hussein di Giordania e anche l'emiro del Kuwait. E alla fine gli Stati Uniti seguirono quel consiglio. Richard Kerr, all'epoca mio vice, diede l'allarme solo 12 ore prima dell'invasione. Il divario tra la percezione di Washington e la realtà delle cose fu enorme. Vedevo i primi carri armati, le armi, e loro mi rispondevano: ma noi non vediamo niente. Era la voce dell'ex agente della CIA, Robert Baer. Il 2 agosto del 90 l'Iraq invade Kuwait e prende possesso dell'intero paese. Al Pentagono nessuno ha prestato attenzione agli avvertimenti degli agenti della CIA che operano tra i due confini. Perfino il direttore d'agenzia, Robert Gates, è all'oscuro di tutto. Ero in vacanza con la mia famiglia nello stato di Washington. Ricordo perfettamente che stavamo con i piedi a mollo quando una parente di mia moglie si avvicinò e mi disse: mi sorprende vederti ancora qui. E io: ma di che parli? E lei mi rispose: l'invasione. L'invasione, faccio io. Sì, l'Iraq ha invaso il Kuwait. L'ambasciatore americano Joseph Wilson incontra Saddam Hussein. Saddam ha invaso il Kuwait il 2 agosto. Io l'ho incontrato 4 giorni dopo. Abbiamo parlato per circa 1 ora e mezza, durante la quale mi ha proposto un patto. Voi mi lasciate il Kuwait ed io vi assicuro un rifornimento costante di petrolio ad un prezzo ragionevole. In questo modo io avrò il controllo di tutta l'area a nord del Golfo. Rimasi di sasso, non riuscii a dormire per 4 notti di seguito. Io sapevo che dovevo eseguire un ordine preciso, tirarlo fuori dal Kuwait. La nostra strategia è sostanzialmente semplice: prima isolare l'esercito e poi eliminarlo. Era la voce del generale Colin Powell nella conferenza stampa in Iraq del 24 febbraio 1991. La guerra del Golfo sarà breve. In pochi giorni l'esercito di Saddam Hussein è costretto alla resa. Si pone però una domanda cruciale. L'operazione Desert Storm deve fermarsi anche se il leader iracheno è ancora al potere? La CIA vuole portare a termine il lavoro ed eliminare Saddam Hussein. Il presidente Bush invece è contrario. Ce ne parlano il direttore della CIA e l'ambasciatore Joseph Wilson. Prima che la prima pallottola venisse sparata, ci fu detto che il nostro principale obiettivo non era un cambio di regime. Non credo che saremmo stati in grado di mettere su una coalizione come quella che ha combattuto nel Golfo se avessimo avuto come primo obiettivo il sovvertimento di Saddam Hussein. Se Saddam Hussein fosse stato ucciso in combattimento, beh, sono cose che capitano in guerra, ma ucciderlo mentre era ancora al potere era un'altra cosa. Esistono dei limiti ben precisi e non possono essere valicati per nessun motivo. Ogni sera pregavamo che Saddam si trovasse in uno dei tanti bunker che distruggevamo, ma sapevamo che dormiva nelle scuole, nelle moschee, negli ospedali. Non avremmo mai bombardato simili obiettivi. 21 gennaio 1993. George Bush, che sperava in un secondo mandato alla presidenza, viene sconfitto alle elezioni da Bill Clinton. Miei cari concittadini, sono qui per costruire Bill Clinton un ponte che ci conduca. Fa capire subito che ha una bassissima opinione dei servizi segreti americani. Le operazioni risoltesi in un fiasco e gli errori di valutazione, dalla Baia dei Porci all'ascesa dei fondamentalisti in Iran, dall'invasione sovietica dell'Afghanistan fino all'occupazione del Kuwait, hanno ormai distrutto l'immagine della CIA. Il nuovo presidente ritiene che la lista degli errori sia troppo lunga, per questo decide di licenziare tutti i consiglieri della CIA alla Casa Bianca. Ne parliamo dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Ben trovati su Mix 24. Nel gennaio del 93 Bill Clinton è arrivato alla Casa Bianca, ma i suoi rapporti con l'agenzia non sono dei migliori. A raccontarlo l'ex agente della CIA Robert Byrd. Non appena fu eletto, la CIA gli inviò due agenti perché gli riferissero delle operazioni in corso nel mondo. Clinton non volle neppure ascoltarli. Non li ricevette neanche. La cosa peggiore è che naturalmente la notizia si venne subito a sapere all'interno della CIA. In breve, fu chiaro a tutti che il principale cliente dell'agenzia, il presidente, non voleva saperne della CIA. In poche settimane, come nuovo direttore della CIA, Bill Clinton sceglie una figura di secondo piano, Jane Woolsey. Ascoltiamolo. Prima che Clinton mi nominasse, non avevo mai avuto niente a che fare con la CIA. Ricordo che il presidente mi convocò e mi comunicò la sua intenzione di affidarmi la direzione dell'agenzia. Ma la conversazione, poi, si spostò su temi completamente diversi. In due anni ho avuto solo due incontri con Clinton. 26 febbraio del 93. Clinton è alla Casa Bianca solo da un mese. A New York, un camion imbottito di esplosivo salta nel garage del World Trade Center. Muoiono 6 persone con oltre 1000 feriti. Per la prima volta nella storia gli Stati Uniti subiscono un attacco terroristico sul proprio suolo. Ancora una volta l'intelligence è in ritardo. CIA e FBI si scambiano accuse reciproche. L'FBI non si ritiene responsabile per l'attacco in quanto è stato preparato al di fuori dei confini americani. La CIA, da parte sua, insiste nel dire che non è compito suo indagare ed operare all'interno del suolo statunitense. Questi commenti dell'ex segretario di Stato Haig, poi Robert Steele della sezione antiterrorismo della CIA e poi il giornalista Joseph Trento. Quell'attentato avrebbe dovuto essere un drammatico campanello d'allarme. In quell'occasione sarebbero potuti morire 15.000 americani. A salvarci da una strage senza precedenti fu solo un errore compiuto dai terroristi nella carica d'esplosivo. Il primo attentato doveva essere un avvertimento. L'offensiva del terrorismo era in atto da tempo, ma noi non ce ne rendemmo conto. L'attentato al Trade Center era un allarme che noi non capimmo. Ma gli estremisti islamici avevano cominciato a reclutare nuove leve a Washington fin dagli anni 70. Subito dopo l'attentato al World Trade Center, l'intelligence riuscì a mettere le mani su moltissimi documenti in lingua araba su quell'azione terroristica. Volete sapere una cosa? Nessuno li ha tradotti. Nell'ufficio dell'FBI di New York c'era un tizio che parlava arabo, ma siccome non fu pagato per la traduzione, semplicemente si rifiutò di farla. Non avevano abbastanza soldi per permettersi di pagare la traduzione dei documenti da lingue straniere e, per dirla tutta, non la consideravano neppure una cosa importante. L'FBI ha un suo metodo, rimasto identico negli anni. A loro piace osservare, studiare la gente per molto tempo. Diciamo che nel caso del World Trade Center hanno aspettato un po' troppo. Ma uno scandalo improvviso sconvolge il mondo dell'intelligence in America e inasprisce ulteriormente i rapporti tra CIA e FBI. Aldrich Ames, capo della sezione controspionaggio della CIA, viene accusato di aver collaborato dall'85 con i russi per 3 milioni di dollari. Ames è anche sospettato di aver rivelato l'identità di 33 agenti americani e di aver causato la morte di altri 10 uccisi da KGB. Aldrich Ames era noto come un incompetente e un alcolizzato cronico. Nel mondo dell'intelligence sono molti quelli che bevono. Ames era un alcolista all'interno di una comunità di alcolisti. E noi dove lo andiamo a mettere? A capo del controspionaggio per l'Unione Sovietica. Un perdente, alcolizzato e incompetente a capo di una unità di controspionaggio. Mi sembra che basti questo a descrivere il grado di inefficienza dei nostri servizi di sicurezza. Era il commento di Robert Steele, allora capo della sezione antiterrorismo della CIA. L'agenzia avvia un'inchiesta interna sul caso Ames, che però non porta a nessun risultato. Il caso viene archiviato. L'amministrazione Clinton, tuttavia, convinta di aver scoperto il caso più clamoroso di infiltrazione della storia americana, affida l'inchiesta all'FBI. Il caso viene riaperto. Ames viene dichiarato colpevole di spionaggio contro il proprio paese. È uno schiaffo alla CIA e una schiacciante vittoria dell'FBI. Sono sempre gli agenti della CIA a commentare questo controverso rapporto tra l'agenzia e l'FBI. Noi non riuscimmo ad arrivare a nulla, ma nessuno di noi collaborò attivamente con l'FBI. Cercavano, ma non riuscivano a mettere le mani su nulla. Era indispensabile un'altra inchiesta. Non c'è dubbio che il rapporto tra CIA e FBI fosse assolutamente pessimo. Usarono il caso Ames, la talpa russa, per dire: ci sono centinaia di talpe dentro la CIA, dobbiamo scovarle. Fu come l'inizio di una caccia alle streghe. Per la CIA fu un colpo durissimo, il danno di immagine fu davvero immenso, incalcolabile. In molti si chiedevano: ma che bisogno abbiamo ancora della CIA? Era il 1994 e ancora non si sentiva parlare di Bin Laden. 1995, l'indagine sull'attentato del World Trade Center giunge ai primi risultati. Dietro l'attacco ci sono Al-Qaeda e il suo leader Osama Bin Laden, un saudita nato a Riyadh. Il patrimonio personale di quest'uomo, soprannominato il finanziere della Guerra Santa, ammonta a 2 miliardi di dollari. Il Washington Post rivela i legami tra Bin Laden e la famiglia reale saudita, ma denuncia anche come l'uomo sia stato reclutato, addestrato e armato dalla stessa CIA negli anni dell'invasione russa dell'Afghanistan. In quegli anni Bin Laden ha trovato sostegno e appoggio logistico per le sue operazioni sia dagli Stati Uniti che dall'Arabia Saudita. Per anni l'America non si è resa conto che la famiglia reale saudita finanziava il terrorismo come misura per mantenere una stabilità interna. Quando Clinton lasciò la Casa Bianca, sapeva già da tempo che vi era un passaggio massiccio di soldi fra la famiglia reale saudita e Bin Laden. Sia i democratici che i repubblicani decisero di tollerare questo finanziamento di azioni terroristiche. I sauditi avevano il petrolio. Nessuno mi toglie dalla testa che si è trattato di un errore strategico di capitale importanza. Ci siamo comportati immoralmente e solo per il petrolio. Se si prende un paese come l'Arabia Saudita, si scatena una rivoluzione e il prezzo del petrolio sale del 25% fino a una cifra record di $150 al barile. Ecco che quel paese, in breve, sarà alla rovina. Ci siamo mossi sempre con cautela nei confronti dei sauditi per paura che ci tagliassero la fornitura di petrolio. Era il commento del giornalista Joseph Trento. Nei confronti della ricca monarchia saudita, che applica la legge coranica alla lettera, ma che rifonde gli Stati Uniti delle spese affrontate per la guerra del Golfo, Washington decide una linea morbida. I più potenti gruppi petroliferi americani lottano per accaparrarsi i favori della leadership saudita e aggiudicarsi una fetta di torta che vale 150 miliardi di dollari all'anno. Nel consiglio dell'amministrazione della compagnia saudita Aramco, molti membri sono cittadini americani. Un gran numero di persone che si occupano della politica estera americana dipendono dai soldi della famiglia reale. Non si può non essere alleati delle compagnie petrolifere americane, sia prendendo soldi da loro direttamente oppure possedendo loro azioni. I diplomatici americani, una volta in pensione, se ne vanno a lavorare per l'Arabia Saudita o per un altro paese del Golfo. Basta che un politico sia compiacente verso l'Arabia Saudita per essere invitato a Riyadh e guadagnare milioni di dollari per un discorso pubblico. Funziona così: ex impiegati della Casa Bianca vanno a lavorare per una banca saudita e diventano consulenti. In ultima analisi, la lobby petrolifera conta più della CIA. Era Robert Baer, ex agente della CIA. Per pura coincidenza, proprio tra le mura della Casa Bianca, Robert Baer scopre che le lobby petrolifere stanno aiutando Bill Clinton, finanziando la sua campagna per la rielezione. Baer si imbatte in Roger Tamraz, il capo di numerose compagnie petrolifere, invitato a un pranzo con il presidente. Per questo invito, $300,000 finiscono nelle casse del Partito Democratico. Riprendiamo da qui dopo la pubblicità. Mix 24, la storia. Bentornati su Mix 24 con la storia della CIA. Robert Baer è un ex agente che spiega il suo dissenso con l'agenzia. Ha da poco scoperto gli stretti legami tra le compagnie petrolifere e il finanziamento della politica. Vidi con i miei occhi questo facoltoso libanese che versava del contante. E Don Fowler in cambio gli prospettava una lista di favori. Un incontro privato con il presidente, una notte nella camera da letto di Lincoln, un volo sull'Air Force One, un paio di gemelli da polso. Insomma, una lista completa, con tanto di prezzi. Ma quando cominciai a scrivere rapporti sul presidente degli Stati Uniti, feci una cosa che non si era mai fatta nella CIA. E la feci consapevolmente. Andai al congresso e dissi tutto quello che era successo, anche se non sapevo bene come funzionasse. Ma dovevo dirlo a qualcuno. Baer andrà fino in fondo. Al congresso testimonia sul ruolo delle lobby nella politica americana e in particolare nelle elezioni presidenziali. Parla anche dei metodi poco ortodossi adottati dall'entourage di Clinton. Il giorno in cui mi presentai davanti al grand jury per testimoniare sui finanziamenti per la campagna elettorale, qualcuno entrò nel mio appartamento, dove però non presero nulla. Durante l'interrogatorio, nessuno mi rivolse una sola domanda sul finanziamento. Anzi, ogni volta che provavo a sollevare il problema, il ministro della giustizia mi fermava, minacciando di incriminarmi per oltraggio alla corte. Robert Baer si dimette dalla CIA. La CIA intanto è riuscita a localizzare Bin Laden in Sudan. Ma siamo alla vigilia delle elezioni presidenziali. Clinton non vuole revocare il decreto presidenziale istituito da Gerald Ford 20 anni prima, decreto che vietava di commettere omicidi in paesi stranieri. Ma nel febbraio del 96 firma un ordine top secret che autorizza la CIA a liberarsi di Bin Laden con ogni mezzo. Marzo 1996. A seguito delle pressioni esercitate dalle Nazioni Unite, il governo sudanese decide di espellere Bin Laden e il suo esercito segreto e di rimandarli in Arabia Saudita. La famiglia reale però rifiuta di accoglierli. I sudanesi allora si rivolgono a Bill Clinton proponendogli un affare. Ascoltiamo Milton Burden e poi ancora Robert Baer. Gli Stati Uniti e il governo saudita si rivolsero ai sudanesi, facendo presente che Bin Laden era un grosso problema. Il Sudan, molto interessato a migliorare i rapporti sia con gli Stati Uniti che con l'Arabia Saudita, rispose: «Volete che ve lo consegniamo?» Ma i sauditi risposero: «Noi non vogliamo saperne». Non volevano che Bin Laden tornasse in patria, volevano solo che sparisse. I sudanesi volevano consegnare ai sauditi Bin Laden perché lo arrestassero. Era una questione che sarebbe stata condotta tra paesi musulmani. In altre parole, tra il febbraio ed il marzo 1996, Bin Laden sarebbe potuto finire in cella. I sudanesi avrebbero fatto di tutto pur di compiacere gli Stati Uniti. I sudanesi dissero che volevano consegnare Bin Laden agli americani, ma gli americani risposero: «Non possiamo prendercelo, non abbiamo accuse sicure contro di lui». E così la storia si chiuse. Gli Stati Uniti non esercitarono alcuna pressione sull'Arabia Saudita perché si prendesse Osama. Ricordo perfettamente quell'incontro. Gli americani dissero: se per voi è un problema, fate come volete, a noi non interessa. I sudanesi se ne liberarono e Osama riparò in Afghanistan. Il governo americano decide di rinforzare l'unità dell'antiterrorismo. A questo scopo, unità dell'FBI e della CIA, due agenzie da sempre nemiche, si fondono in un'unica sezione che si deve occupare di terrorismo internazionale. Adele Watson, il responsabile dell'FBI per l'antiterrorismo, viene richiesto di unirsi alle fila della CIA. Ascoltiamolo. Dissi: cosa volete che faccia? La risposta fu: abbiamo bisogno di qualcuno che lavori per la CIA. Beh, trovatelo, io non conosco quelli della CIA e non voglio averci a che fare. Mi risposero che tu lo voglia o no, sarai tu a lavorare per la CIA. Fu un'imposizione. E così cominciò la collaborazione tra la CIA e l'antiterrorismo dell'FBI. 7 agosto 1998. Due attacchi terroristici contro le ambasciate americane in Tanzania e in Kenya fanno 224 morti. 12 sono cittadini americani. Bin Laden diviene il pericolo pubblico numero uno. Washington fissa una taglia per la sua cattura. A dispetto del suo budget annuale, che costa ai contribuenti americani miliardi di dollari, i due attentati trovano la CIA ancora una volta impreparata. Due anni dopo, il 12 ottobre 2000, nello Yemen, un attacco suicida contro la nave Cole nel porto di Aden uccide 17 marinai americani e ne ferisce 26. L'amministrazione Clinton considerò quegli attentati attacchi senza alcuna importanza. Novembre 2000. Contro ogni previsione, George Bush Jr., il governatore del Texas, si aggiudica la Casa Bianca per una manciata di voti. 8 anni dopo la sconfitta elettorale del padre, il figlio si riprende la presidenza. Vorrei ringraziare mio padre, l'uomo più degno che abbia mai incontrato. È lui ad avermi insegnato che un animo gentile all'occorrenza può essere forte. Papà, sono fiero di essere tuo figlio. Negli anni 60, prima di divenire direttore della CIA e poi presidente degli Stati Uniti, George Bush Senior ha creato una compagnia petrolifera, la Zapata Company. Sebbene disponga di un budget modesto, la società ottiene il prezioso permesso di operare in Kuwait. In breve tempo, Bush padre ammassa una fortuna. Anche il figlio segue le sue orme. Nel 79 costituisce una compagnia per l'estrazione del greggio in Texas, l'Arbusto Energy. L'impresa, però, è gestita talmente male da dover essere rilevata da un uomo di affari saudita, Salim Bin Laden, fratello da parte di padre di Osama. La famiglia di Bin Laden, del resto, è già padrona dell'aeroporto di Houston in Texas. Prima di essere eletto governatore, Bush figlio riceve $120,000 all'anno dal gruppo Arken Energy per i servizi di consulenza. Il 25% delle azioni del gruppo è di proprietà dei sauditi e lo studio legale è quello di James Baker, segretario di Stato sotto la presidenza di Bush padre. Ce ne parla il direttore della CIA nel 1973, James Schlesinger. Il segretario di Stato Baker una volta disse: la questione è semplice, per spiegarla basta una parola, petrolio. Nel giugno del 90 il figlio di Bush vende le sue azioni per $1 miliardo. Due mesi più tardi, l'Iraq invade il Kuwait. L'inchiesta aperta per stabilire se Bush padre, durante il suo mandato di presidenza, abbia passato al figlio informazioni riservate, viene chiusa per mancanza di prove. Sentiamo il giornalista Joseph Trento. Il presidente degli Stati Uniti, suo padre, che è stato a sua volta presidente, e il vicepresidente degli Stati Uniti, sono tutti divenuti miliardari e hanno fatto affari d'oro con il petrolio grazie ai rapporti con la famiglia reale saudita. Non ci sarebbero mai stati contatti con i talebani se la Unicol e la Enron non li avessero cercati e se non fossero stati fra i maggiori contribuenti della campagna di Bush. Nel 1989 Bush figlio entra nel consiglio di amministrazione della Carlyle e vi rimane fino al 1984 senza mai dichiarare al fisco il suo stipendio. Il gruppo, di dimensioni gigantesche, lavora nel campo dell'industria bellica, producendo missili, aerei da combattimento, carri armati. Il budget è di $16 miliardi all'anno. Tra le figure principali della compagnia vi è George Bush Senior. Il consiglio di amministrazione è formato da personalità dall'enorme potere, capace di orientare le scelte della politica dell'amministrazione, e ognuno di loro possiede $200,000 di capitale. A capo dell'amministrazione c'è Frank Carlucci, ex vice direttore della CIA e ministro della difesa durante la presidenza Reagan. Poco dopo essersi insediato alla Casa Bianca, Bush figlio firma un contratto da $12 miliardi con il gruppo Carlyle per acquistare un nuovo sistema di artiglieria. Ascoltiamo le accuse di Robert Steele e Joseph Trento e la difesa di Frank Carlucci. Con ogni probabilità il gruppo Carlyle ha diretto accesso alle informazioni in possesso della CIA su ogni angolo del mondo. Ci sono state molte accuse nei nostri confronti. Ci hanno definito una società politica, ma nessuno, dico nessuno, ha mai potuto trovare prove di nostri coinvolgimenti in decisioni politiche o di tentativi di influenzare le scelte del governo. Noi compriamo e vendiamo compagnie e in questo modo facciamo soldi, tutto qui. Svolgono operazioni segrete e poi riciclano il denaro attraverso il gruppo Carlyle. Bush padre è un business partner del gruppo, così come Colin Powell. James Baker, John Major, Arthur Levitt, questi sono i nostri uomini. Si tratta solo di uomini d'affari, che hanno grandi capacità ed abilità. Varrebbe la pena di provare a indagare sulla provenienza di tutto quel denaro. Il gruppo Carlyle ha molti interessi in Arabia Saudita. La famiglia Bin Laden, ad esempio, ha cominciato a investire negli affari della Carlyle a Londra. È indubbio quindi che ci siano forti legami. Credo che si possa dire che i rapporti tra l'Arabia Saudita e gli Stati Uniti, in particolare con la famiglia Bush, sono molto stretti. C'era soltanto qualche piccolo investimento, roba di uno, al massimo $2 milioni. Ce lo siamo ricomprato, ma noi non abbiamo mai fatto affari con Osama Bin Laden. Con la storia della CIA riprendiamo dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Rieccoci su Mix 24. Poche settimane dopo il suo insediamento, Bush riceve un chiaro avvertimento dalla CIA. Bin Laden sta rivolgendo minacce esplicite contro gli Stati Uniti. Due mesi più tardi, nel marzo del 2001, una commissione governativa pubblica un rapporto che così conclude. È da ritenersi probabile un attacco contro cittadini americani sul suolo americano. Il nostro paese non ha strutture governative sufficienti a fronteggiare questa minaccia. Sapevamo che già nel 93, oltre a quello al World Trade Center, avrebbero dovuto esserci altri attacchi a New York. Nel 95 c'era un piano per abbattere 12 aerei di linea, far precipitare un aereo sul quartier generale della CIA e il progetto di attaccare l'aeroporto di Los Angeles per il Capodanno del 2000. Ma purtroppo i nostri politici non hanno saputo far altro che scrollare le spalle. Nessuno ha fatto nulla. Le minacce crescono, ma il dissidio tra la CIA e l'FBI non diminuisce. Entrambi alimentano l'odio reciproco, tenendo per sé ogni informazione di cui entrano in possesso. Febbraio 2001, Israele avverte la CIA: i terroristi sequestreranno uno o più aerei americani e li utilizzeranno come armi. Il re Abdullah di Giordania, il presidente Mubarak, il cancelliere tedesco Schröder passano al Pentagono la stessa informazione. In un prossimo futuro verrà sferrato un attacco sul suolo americano attraverso aerei. Nel 98 inviai un'email alla CIA su Khaled Sheikh Mohammed. Spiegavo dei suoi viaggi in Europa, dei possibili dirottamenti e dei suoi pseudonimi. Non ho mai ricevuto risposta. Alcuni arabi si addestravano a pilotare aerei. La cosa curiosa è che non erano interessati alla fase di atterraggio. Bastava questo per destare sospetti. Ricevemmo molti avvisi su possibili attacchi, ma nessuno è stato preso sul serio. Un ragazzo andò negli uffici dell'FBI un anno prima del disastro dell'11 settembre. Si rivolse a un funzionario e gli fece presente che esisteva un piano per attaccare il World Trade Center con degli aerei. L'FBI, non potendo verificare a fondo la veridicità della storia e probabilmente non volendo passare informazioni alla CIA, non diede importanza alle parole di quel giovane e lo lasciò andare. È quello che è successo con Zakaria Moussaoui. Il 24 agosto 2001 il DST, il servizio segreto francese, consegnò all'addetto dell'FBI a Parigi un documento nel quale si mostrava chiaramente che Moussaoui agiva per conto di Al-Qaeda. Noi fornimmo delle informazioni specifiche che dimostravano chiaramente che Moussaoui era stato addestrato in Afghanistan in un campo diretto da Bin Laden. Sapevamo anche che aveva avuto dei contatti con agenti di Al-Qaeda in Europa e abbiamo fornito i loro nomi alle autorità degli Stati Uniti. All'FBI di Minneapolis, dove Moussaoui operava, quel documento non è mai arrivato. Non solo le informazioni non arrivavano dall'FBI di Minneapolis alla centrale, ma lo stesso vertice dell'FBI teneva Minneapolis all'oscuro di tutto. La Francia passò la notizia agli Stati Uniti. La risposta fu: non è importante. Non si pensò neanche di intercettare le telefonate di Moussaoui o di entrare nel suo computer. Il fallimento fu che la CIA non condusse alcuna operazione in Arabia Saudita. L'ordine era che i sauditi erano nostri amici e che non dovevamo spiare degli amici. Forse, se avessimo lasciato lavorare la nostra intelligence, non avremmo mai avuto un 11 settembre. Fausto Biroslavo, giornalista e corrispondente di guerra. Le dichiarazioni del premio Pulitzer Seymour Hersh, secondo cui la cattura di Bin Laden sarebbe una messa in scena frutto di un accordo tra Pakistan e Stati Uniti, possono considerarsi plausibili? Sì, un po' la scoperta d'acqua calda forse, nel senso che già ai tempi dell'assalto e dell'uccisione di Bin Laden si sospettava che i pakistani fossero al corrente, sia che lo sceicco del terrore si trovasse in Pakistan, in quel posto a un chilometro da un'accademia dell'esercito, i giovani cadetti dell'esercito, e sia che in qualche maniera ci fosse stato un accordo con gli Stati Uniti per farlo fuori. Ma quindi sarebbe una messa in scena, cioè... Una messa in scena forse è una parola grossa. Cioè Obama avrebbe potuto mentire così spudoratamente? Più che mentire, Obama ha omesso forse parte della verità, parte degli accordi con i pakistani. Per esempio il premio Pulitzer evidenzia, anche questo era uscito, che è stato poi un medico a dare la conferma grazie al DNA, e poi ci sono state delle conferme da parte di alti ufficiali dei servizi segreti pakistani che non potevano non sapere, solo che Osama era una presenza ingombrante, molto ingombrante per il Pakistan. Qual è allora il punto più controverso dell'operazione che poi ha portato alla cattura di Bin Laden? Ma il punto più controverso secondo me è come è possibile che ci siano arrivati solo 10 anni dopo, dato che lui stava già da così tanto tempo in Pakistan, a un chilometro da un'accademia militare pakistana, e da diversi anni ormai era in Pakistan, e prima ancora era nelle zone tribali. Cioè, diciamo che lui se n'è andato dall'Afghanistan alla fine del 2001 alla fine del 2001, dopo la sconfitta in seguito alle Torri Gemelle, eccetera eccetera. Ma era nelle mani dei pakistani, cioè sotto controllo? Si dice appunto in queste rivelazioni che il Pakistan l'abbia tenuto più o meno sotto controllo, ma più o meno che più forse sotto controllo, comunque individuato là, fermo là, grazie anche all'intervento della sua patria d'origine, l'Arabia Saudita, che avrebbe chiesto questo favore, dato che ha ottimi rapporti con Islamabad, al Pakistan. Anche questo può essere plausibile. Quello e che poi il Pakistan lo avrebbe dato agli Stati Uniti in cambio di aiuti militari? Ma gli aiuti militari al Pakistan gli Stati Uniti li concede già da anni. Ogni tanto blocca, diciamo, delle forniture per il braccio di ferro che c'è con i militari pakistani, con i problemi dei droni che colpiscono nelle aree tribali, i militari che protestano. Ma secondo te allora perché la Casa Bianca nega? Ma la Casa Bianca nega forse perché appunto ci sono alcuni accordi innominabili che è meglio che rimangano sotto il tappeto, e forse è anche giusto così, perché alla fine la Casa Bianca e un po' alla fine un po' anche gli osservatori tutti dicono: Sì, l'importante è anche l'obiettivo finale. Obama forse avrebbe dovuto essere catturato, ma questo non faceva parte degli accordi, perché immaginatevi cosa avrebbe potuto dire un tribunale, che ne so, a New York, sui rapporti con il Pakistan, su anche i rapporti con gli Stati Uniti e la CIA ai tempi della guerra, dell'invasione sovietica dell'Afghanistan negli anni Ottanta. Ecco appunto, ma gli americani ancora pagano il supporto dato ai Mujahideen in funzione antisovietica negli anni Ottanta? Beh, certamente, lo pagano, perché è stato un supporto azzardato fino a un certo punto, nel senso che indubbiamente ha sconfitto l'Armata Rossa. Ricordiamoci che l'Armata Rossa è stata 10 anni in Afghanistan, si è ritirata e lo stesso anno al ritiro poi è crollato il muro di Berlino, è crollato l'impero sovietico, quindi è stata una spallata potentissima. Ma ricordiamoci anche che quegli aiuti ai Mujahideen sono arrivati attraverso i sauditi, attraverso i pakistani, che aiutavano i gruppi più estremisti, che aiutavano anche Osama Bin Laden, e che una volta appunto sconfitta l'Unione Sovietica si è dedicato, come abbiamo visto, all'America. Quindi hanno creato una serpe in seno che gli americani creano spesso, sono abilissimi a farlo, lo fanno ancora tutt'oggi. Guardiamo per esempio cosa è successo in Siria con la nascita dell'ISIS, dello Stato Islamico. Sì, non sembra cambiata molto la strategia americana. Esatto, la strategia non sembra cambiata molto, nonostante bisognerebbe imparare degli errori o degli azzardi del passato. Fausto Biloslavo, tu sei andato spesso in Afghanistan e hai indagato anche su Al-Qaeda, ma oggi qual è lo stato dell'organizzazione? Ma Al-Qaeda forse non esiste più come l'aveva inventata Osama Bin Laden, è molto indebolita, ormai da tempo era diventata una forma di organizzazione terroristica in franchising, non so, Al-Qaeda nello Yemen, Al-Nusra, costola di Al-Qaeda in Siria. Realtà locali che hanno saputo trovare terreno fertile in zone di operazioni conflittuali regionali. Il medico di Bin Laden, Ayman Zawahiri, che era il suo braccio destro e che l'avrebbe sostituito, non ha certo il carisma e il potere di Osama Bin Laden. Ci sono però appunto dei colonnelli, dei capi regionali, come nello Yemen, come in Siria, come nel Maghreb, che hanno indubbiamente ancora seguito e soprattutto rappresentano ancora una grave minaccia.